GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Calci e graffia un'infermiera a Monfalcone, Will Chisel e Nursin chiedono strumenti di difesa personale non letali. Casarsa ricorda Pierpaolo Pasolini con l'orazione funebre di padre Maria Turoldo. I servizi termali verso la ripresa, domani riaprono le terme romane di Monfalcone, a dicembre saranno operative le rinnovate terme marine di Grado. Udinese si ricarica con la vittoria contro l'Atalanta, mentre in Serie C la Triestina sta per iniziare una delle sfide più ostiche del campionato contro Brescia. Nel basket, doppia vittoria in trasferta per Trieste a Udine, ora si attende la Gesteco in trasferta questa sera a Brindisi. Buongiorno da Nada Ciocchi. In apertura di questo giornale radio la cronaca con l'ennesima aggressione a un'infermiera di un pronto soccorso è accaduta a Monfalcone. Un uomo già noto al personale sanitario in evidente stato di astinenza ha aggredito un'infermiera colpendola con un calcio alla gamba e graffiandola. L'aggressore è stato arrestato. L'episodio si è verificato poco prima dell'ingresso in servizio della guardia giurata. Segno, denuncia la UIL, di una fragilità organizzativa che non può più essere ignorata. Will, Funzione Pubblica, Chisel e Nursin Friuli Venezia Giulia chiedono misure di tutele più forti e immediate, in particolare chiedono che le aziende sanitarie valutino e adottino nei reparti ad alto rischio la fornitura di strumenti operativi di difesa personale non letali, unitamente a percorsi formativi obbligatori e a procedure operative chiare che ne regolino l'uso, la custodia e la responsabilità. Una richiesta che creerà sicuramente dibattito nei prossimi giorni. Casarsa ricorda Pierpaolo Pasolini nel cinquantenario del suo assassinio sul Lido di Ostia con una commemorazione in cui Massimo Somallino ha letto l'orazione funebre di padre David Maria Turoldo. Nel pomeriggio si apre anche il laboratorio transfrontaliero Pasolini High School che coinvolge studenti di Nova Gorica. A 50 anni dalla morte violenta di Pierpaolo Pasolini, Casarsa della Delizia si è riunita per una partecipata commemorazione dell'intellettuale attorno alla sua tomba nel cimitero di Casarsa, al paese di cui era originaria la madre, Susanna Colussi. Pasolini era legatissimo, qui ha vissuto e tornava per le vacanze estive, qui imparò il friulano utilizzato nelle sue opere ed ebbe modo di conoscere profondamente quella civiltà contadina esaltata nei suoi scritti, in contrapposizione a una società trasformata da quel capitalismo da lui così aspramente criticato. La cerimonia è stata impreziosita dalla presenza dell'attore Massimo Somallino. La sua voce ha letto l'orazione funebre di padre David Maria Turoldo, scritta in occasione delle esequie del 6 novembre 1975, un giorno che ben ricorda il sindaco di Casarsa Claudio Colussi, allora ventenne. Alla commemorazione hanno partecipato gli artisti Piotta e Davide Toffolo, che insieme hanno appena pubblicato un singolo dedicato a Pasolini dal titolo Ecchime, una opera che mette insieme la sua origine friulana con la sua romanità acquisita. Tra oggi e domani diverse le iniziative organizzate dal Centro Studi Pasolini, tra cui un laboratorio dedicato a ragazze e ragazzi provenienti dall'Italia e dall'estero, accomunati dalla passione per Pierpaolo Pasolini. Casarsa della Delizia, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. I servizi termali sono un presidio sanitario importante che a causa di interventi di manutenzione in diverse strutture negli ultimi mesi sono stati di difficile fruizione, un periodo che comunque sta per concludersi. Domani riaprono le terme romane di Monfalcone che dopo un periodo di chiusura per manutenzione straordinaria offrono nuovamente i servizi termominerali con altissime proprietà curative. Sono infatti l'unica struttura con acqua termominerale calda a 39-40 gradi centigradi in Friuli Venezia Giulia, ma a breve si profila anche la riapertura delle terme marine di Grado, appena riammodernate con un intervento di 11 milioni di euro. L'offerta di tutti i servizi disponibili sarà presentata la prossima settimana dalla GIT. Intanto è certo che la struttura termale di Grado rimarrà aperta tutto l'anno anche in chiave di destagionalizzazione della località balneare. A Trieste rimane invece ancora ancora orfana di una piscina termale dopo il crollo del tetto dell'acqua marina avvenuto nel luglio del 2019. E ora il meteo: il cielo è da nuvoloso coperto sulla regione, le temperature registrate poco fa: Trieste 19 gradi, Gorizia e Udine 16, Pordenone 15, Tolmezzo 14, Tarvisio 13, Forni di Sopra e Piancavallo 11 gradi, Sappada 9, sul Lussario e sullo Zoncolan 7 gradi, a Grado 18, a Lignano 17 gradi. Le previsioni dell'ARPA: cielo coperto nel pomeriggio, sera, marcato peggioramento a partire da ovest con piogge anche temporalesche, in genere intense sulla zona montana. Dal pomeriggio soffierà vento da sud o sud-ovest da moderato a sostenuto sulla costa, in quota sulla zona montana. Verso la tarda sera quota neve in calo a 1400-1600 metri sulle Alpi e soffierà vento sostenuto da nord in quota sulla zona montana, che successivamente potrà interessare la pianura. Domani nelle prime ore cielo da nuvoloso a coperto con residue piogge sulle zone orientali, con quota neve a 1300 metri sul Tarvisiano, soffierà vento moderato sostenuto da nord-nord-est. In giornata cielo poco nuvoloso con boda moderata a Trieste. Il Museo Interattivo della Radio e della Società di Pasiano di Pordenone propone alle 16 una visita guidata condotta per la prima volta dai responsabili scientifici del museo, Museo Alessandro Battocchio. Ma sentiamo il direttore del museo, Luca Marigliano. Da un primo punto di vista cito Elly Flanagan. Elly Flanagan, commediografa, scrittrice, autrice teatrale, che a metà del Novecento dice: il segreto della radio non è quello di parlare a milioni di persone, ma di parlare intimamente a ciascuna di esse. Questa cosa è interessante, interessante perché dà un parametro che non è soltanto tecnologico, cioè non è soltanto quello di aver permesso dalla fine dell'Ottocento e soprattutto nei primi decenni del Novecento di superare enormi distanze, ovvero planetarie distanze a un certo punto, ma è quello di farlo anche dal punto di vista dell'intimità e delle emozioni, cioè suscitando delle emozioni. Questa cosa si riflette, se ci pensiamo, nel podcast. Ormai si sviluppa in un'epoca in cui non c'è bisogno più di ragionare sul superamento delle distanze, figuriamoci col web, ma riqualifica i codici di comunicazione, quindi ci rende comunque di nuovo vicini in maniera diversa a questo modo di raccontare. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora la pagina dello sport: l'Udinese carica dopo la vittoria contro l'Atalanta. Udinese bella e pericolosa con Zaniolo. Suo il gol che stende l'Atalanta dopo una gara dominata sul piano del gioco dai friulani. Nel primo tempo conclusioni da lontano per Zanoli e Camarà, prima della terza rete in campionato del 10 dell'Udinese, che esulta sotto la curva dei suoi ex tifosi. Nella ripresa l'Atalanta non batte nessun colpo, rischia dopo un contropiede di Baiò e friulani che salgono a quota 15 in classifica alla fine, prima della trasferta all'Olimpico nel prossimo turno contro la Roma. La migliore Udinese di questo inizio di stagione, anche per Costa Rugnaic, tecnico della formazione friulana. È stato un pomeriggio magico, grazie ai nostri ragazzi e grazie alla nostra gente. Sono molto felice e orgoglioso. Penso che una partita solida, matura, e continuiamo così. Udine, Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. In Serie C sarà un mezzogiorno di fuoco per la Triestina, che al Rocco tra qualche minuto affronta l'Union Brescia, la squadra che insieme al Vicenza è la squadra favorita del campionato. Basket: in A1 vittoria in trasferta per entrambe le squadre regionali. Trieste è tornata da Treviso, con il derby in mano, chiuso a 107-100. Prima vittoria di campionato per la Udine, che in trasferta ha battuto la Dinamo Sassari per 88-70. E in A2 Gesteco gioca in trasferta a Brindisi alle 18. Il servizio. Per il primo successo era soltanto questione di tempo. Dopo un ottobre all'asciutto, ma con buone prestazioni, Udine brinda la prima vittoria in A non appena incontra una squadra alla portata. Lo fa in trasferta di autorità contro una diretta concorrente per la salvezza. Sassari non è più quella delle scorse stagioni. A stranieri egoisti, italiani di terzo piano, mentre la banda di Vertemati è solida e precisa. Inizio forte, 8-0 con la tripla di Hiki, 25-15 con l'appoggio di Daros sul finire di primo quarto. I sardi, ancorati allo zero in classifica, trovano il quarto della vita da Vincini e tornano in partita, ma ma dura poco. Nella ripresa è Benzius, alla miglior prova stagionale, a castigare gli ex tifosi. 12 punti di fila con due triple e il traghetto Apu che prende il largo, andando all'ultimo mini riposo con 17 punti di vantaggio. Gestirli non è complicato, c'è spazio per tutti. Sono Mekovulu e Alibegovic a firmare l'88-70 finale e i primi due punti in campionato. Per i friulani tutti a referto tranne Spencer, segnali di risveglio da Dawkins. In trasferta vince anche Trieste, al secondo derby conquistato in 6 giorni. A Treviso è festival degli attacchi, nonostante un Ross che si mette fuori partita da solo. Protagonista Jamaius Ramsey, l'americano non conosce la parola difesa, ma in attacco inarrestabile. Chiude con 34 punti, miglior prestazione stagionale della Serie A finora. Dicevamo, difese allegre, Ragland 14 assist, accende Abdurrahman, ma i biancorossi chiudono la prima metà sul 58-54 e accelerano nel terzo quarto, 34 punti segnati e una sensazione di onnipotenza da parte di Sissoko tra schiacciate e appoggi e con la tripla fil di sirena di Candussi che sancisce il più 15. La squadra di Gonzales potrebbe portarla a casa senza soffrire, invece si complica un po' la vita staccando la spina. A salvarla è ancora una volta Ramsey con un canestro di pura classe dall'angolo, 107-100, la guardia americana finisce con 7 su 11 dalla lunga distanza. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. E questo è tutto per questo giornale radio che è stato redatto e condotto da Nada Ciò con la collaborazione tecnica di Paolo Cassano, collaborato in redazione Valentina Veneruso. Da tutti noi l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.